Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione che racconta l'attualità, la cultura e il mondo delle idee, mettendo al centro del discorso tutti gli animali, sia umani che non umani, con un'attenzione speciale a questi ultimi. Il nostro è un programma animalista, antispecista e vegan un po' sperimentale, ma che va in onda ormai da 5 anni e mezzo. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Oggi parleremo, come spesso facciamo, di relazioni insolite fra umani e non umani, relazioni che riguardano specie, animali che normalmente non appartengono alla categoria dei domestici. E parleremo anche di questi ultimi attraverso un documentario che ci pare meritevole della massima attenzione. Ma per cominciare, andiamo in quel gruppo di isole nell'Oceano Atlantico denominate Faroer e legate da un'anomala relazione con il Regno di Danimarca, del quale costituiscono un territorio autonomo. Questo è uno status che ha permesso alle isole di restare fuori dall'Unione Europea e quindi di sfuggire alle norme sulla pesca e alle convenzioni sulle specie protette. È così che le Faroer hanno potuto proseguire la tradizionale mattanza dei globicefali, una cruenta forma di pesca, o forse meglio dire di caccia, chiamata Grindadrap. I cetacei vengono spinti dalle imbarcazioni dei cacciatori verso acque basse vicino a terra e li massacrati con uncini e lunghi coltelli che entrano nella schiena, fino a farle agonizzare e poi morire. L'acqua del mare diventa rossa. Nei giorni scorsi questa mattanza ha portato alla morte di 1605 esemplari. La carne dei globicefali un tempo era largamente usata per l'alimentazione umana, oggi è poco più che una curiosità. La carne ricavata dalla mattanza è in parte venduta ai ristoratori e per il resto è regalata agli abitanti del luogo. Quel che conta oggi più che il cibo è il rispetto della tradizione. A opporsi a questa pratica barbara sono stati negli anni scorsi gli attivisti di Sea Shepherd che con la loro flotta hanno disturbato i cacciatori delle Faroer. Ora l'organizzazione fondata da Paul Watson ha deciso di percorrere anche la via legale con la richiesta all'Unione Europea di aprire una procedura di infrazione contro la Danimarca accusata di favorire l'uccisione di animali appartenenti a specie protette. Le Faroer per ora se la sono cavata grazie al loro incerto status giuridico, ma la Danimarca è responsabile della difesa e della polizia anche per queste isole e quindi la competenza dell'Unione Europea potrebbe anche scattare. Sea Shepherd e la Fondazione Brigitte Bardot hanno anche giocato un'ulteriore carta, scrivendo alla regina Margherita, chiedendole di fermare questa usanza che insanguina le coste delle piccole isole e incrina la reputazione del regno. Ma la regina finora non ha risposto. Dedichiamo questa puntata ai globicefali finiti sotto gli uncini dei cacciatori delle Faroe. Words like violence break the silence, come crashing in into my little world, painful to me, pierce right through me, can't you understand, oh my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Spoken to be broken, feelings are intense, words are trivial, pleasures remain, so does the pain, words are meaningless and forgettable. Chi vi parla, insieme con Camilla Lattanzi, che normalmente conduce la trasmissione, ha vissuto un paio di anni fa un'esperienza straordinaria, una relazione stretta, imprevedibile, con Ginetta, una gazza. Trovata per strada piccolissima, è stata con noi per un paio di mesi, crescendo in casa e imparando piano piano a volare. Le lezioni di volo che io stesso ho tentato di impartirle, facendola saltare da una mano all'altra, tenendo le braccia allargate, sono assolutamente indimenticabili. Il nostro obiettivo non era domesticare Ginetta, bensì rimetterla in libertà. Perciò abbiamo cercato di limitare i contatti con lei e quando è stato il momento l'abbiamo portata a un centro di recupero per animali selvatici, dove ha prima ritrovato una familiarità con i suoi simili e poi è volata via a fare la sua vita. Conoscere Ginetta, vedere da vicino e interagire con una gazza, un animale molto presente nelle città e nelle campagne italiane, è stata una grande esperienza, che ci ha fatto capire meglio quanto sia insensato attribuire a questi animali, come a tutti gli altri colpiti dallo stesso giudizio, la qualifica di animali nocivi. Camilla Lattanzi oggi ci racconta la storia di una lontana parente della nostra Ginetta. Sentiamo. È risaputo che in Africa nera e nell'America indigena la tua famiglia è l'intero villaggio, con tutti i suoi vivi e i suoi morti. E la tua parentela non si limita agli umani. La tua famiglia ti parla anche nel crepitio del fuoco, nel rumore dell'acqua che scorre, nella respirazione del bosco, nelle voci del vento, nella furia del tuono, nella pioggia che ti bacia. E nel canto degli uccelli, che salutano i tuoi passi. Questa è la magnifica apertura di un libro intitolato Penguin Bloom, l'uccellino che salvò la nostra famiglia. Si tratta di un libro di grandi foto, sia colori che in bianco e nero, e di brevi testi che raccontano la storia vera di due destini strettamente intrecciati, quello di un pulcino di gazza ladra e quello di una famiglia umana. Partiamo da quest'ultima. Sam Bloom è una donna australiana. durante una vacanza in Thailandia con il marito e i 3 figli, ha un grave incidente e rimane paraplegica. Con l'autosufficienza perde anche la voglia di vivere e il pensiero del suicidio diventa sempre più ossessivo. Penguin è un piccolo pulcino tremante, caduto dal nido sul duro asfalto. È ferito, stordito, debole. Se fosse rimasto a terra sarebbe sicuramente morto, ma per fortuna nessuno, come la famiglia Bloom, poteva capire la tragedia che rappresenta una brutta caduta. Così il pulcino è stato portato a casa e curato. La rinascita della gazza è anche la rinascita di Sam. Come se l'esempio di adattabilità e di disponibilità al cambiamento di un piccolo uccello avesse riportato la vita alla sua ultima essenza. Poter godere del sole, delle coccole di qualcuno, avere chi non si stanca di provocarti, di invitarti a giocare, ridere, cantare. Piaceri semplici e preziosi che Sam e Penguin tornano ad assaporare insieme. Ci sono foto che testimoniano questa straordinaria intesa. Sam, sdraiata sulla schiena, che fa esercizi, sollevando una sbarra, e la gazza accanto a lei, sdraiata anch'essa sulla schiena, con le zampe per aria, che sollevano un bastoncino. Imprinting, modeling, partecipazione, empatia, ci sono molte teorie a riguardo, ma resta un miracolo, a cui anche Sam, nel suo momento più critico, non è rimasta indifferente. La voce narrante del libro è quella del marito di Sam, il fotografo Cameron Bloom. L'autore scrive: «All'inizio pensavamo di essere noi ad avere salvato lei. Adesso sappiamo che questo incredibile uccellino ci ha reso più forti e più uniti. Ci ha dato infinite ragioni per sorridere, anche nei momenti più difficili. Ci ha aiutati a guarire emotivamente e fisicamente. In altre parole, è stata Penguin a salvare noi». Le foto sono una più bella dell'altra. La gazza è dritta sulla testa dei bambini, sdraiata a pancia in su nel bel mezzo del letto. Il suo primo volo sopra le teste dei bambini nel soggiorno, lei sul manubrio della bici mentre il bambino pedala, nella cabina della doccia, assieme a Sam sotto lo scroscio d'acqua, accoccolata sul suo ventre mentre il fisioterapista la massaggia. Le immagini documentano in modo realistico, ma anche poetico, una bella storia di adattamento, di crisi, di disperazione, di generosità, d'amore e rinascita. Una rappresentazione potente di questi due corpi fragili e vulnerabili che hanno scelto di resistere. Bisogna però denunciare un dettaglio che ci è sembrato significativo. Visitando il sito internet del libro www.penguinbloom.com, Bloom scritto con 2 O, leggiamo che una percentuale delle royalties sulle vendite del libro sarà devoluta a un ente impegnato nella ricerca sulle paralisi spinali. Ente che però effettua anche esperimenti su animali. Potete verificare voi stessi. www.spinalcure.org.au. Purtroppo, spulciando nel sito Spinal Cure, si leggono frasi come queste. L'Università di Melbourne ha scoperto che il blocco di una specifica proteina può fare un'enorme differenza sull'equilibrio e il coordinamento degli arti dei ratti con lesioni spinali. Oppure, questa proteina è stata usata per migliorare negli animali il recupero delle funzioni dopo lesioni del midollo spinale. Quando parlano di lesioni del midollo spinale, di lesioni spinali di topi e altri animali, davvero pensiamo che siano andati in cerca di ratti paraplegici in natura? O piuttosto hanno usato ratti allevati e sani, ai quali le lesioni spinali vengono appositamente causate per poter poi studiare le cure? Cure peraltro destinate non ai ratti, certamente, bensì a noi umani. Pensiamo che questo sia accettabile? Sam sarebbe disposta a spezzare la spina dorsale della gazza che convive con lei, che le ha ridato la vita, il piacere di vivere, per cercare una possibile cura alla sua malattia? E che differenza c'è tra quella gazza e un ratto? Un animale, peraltro, non certo meno intelligente e comunicativo. Esiste una evidente dissociazione tra la considerazione che dimostriamo verso chi ci è vicino e la più completa indifferenza verso chi ci è lontano. Quella linea rossa ci sembra che stia proprio posizionata qui, tra quei viventi che hanno la fortuna di entrare nella sfera della nostra considerazione e chi ne è tragicamente escluso. Da Roma, dagli uffici dell'Università della Sapienza, arriva una notizia che ha richiamato l'attenzione di tutti i media perché segnala un ulteriore passo avanti nella considerazione sociale attribuita alla categoria degli animali domestici, cani e gatti in testa. È successo che un'impiegata dell'università ha chiesto di assentarsi da lavoro per un paio di giorni per poter assistere il suo cane, colpito da paralisi alla laringe e bisognoso di un intervento chirurgico. La donna ha chiesto all'Ateneo 2 giorni di permesso retribuito per gravi motivi familiari, spiegando la difficile condizione del suo cane e la necessità dell'operazione con una successiva degenza. L'università ha inizialmente rigettato l'insolita richiesta, chiedendo maggiore documentazione, che l'impiegata ha fornito a quel punto con l'assistenza dell'ufficio legale della LAV, Lega Antivivisezione. Facendo riferimento ad alcune sentenze della Cassazione, la donna ha potuto sostenere che se avesse mancato di assistere il suo cane avrebbe commesso un reato, violando l'articolo 727 del Codice Penale che sanziona il maltrattamento degli animali. La richiesta a quel punto è stata accolta. Ora, ha commentato Gianluca Felicetti, presidente LAV, chi si troverà nella stessa situazione potrà citare questo importante precedente. È un altro significativo passo avanti, dice ancora Felicetti, che prende atto di come gli animali, non tenuti a fini di lucro o di produzione, sono a tutti gli effetti componenti della famiglia. Cani e gatti, lo sappiamo, sono dei privilegiati, godono di una considerazione negata ad altre specie e hanno anche un riconoscimento giuridico particolare. Maltrattarli e ucciderli senza motivo è un reato penale. Ma quanto davvero conosciamo i cosiddetti animali d'affezione? E come osserviamo, se li osserviamo, gli animali di quelle stesse specie che non vivono in famiglia? Uno sguardo originale su questo mondo è quello di Davide Maiocchi, autore del docufilm No Pet. Sentiamolo nell'intervista di Roberta Marino. L'idea si è risvegliata dentro di me, perché sono un volontario di canile da tantissimi anni e ho sempre sofferto la reclusione dei cani, per quanto mi sono sempre impegnato all'interno di queste strutture. Ma ciò che me l'ha fatta risvegliare è stato un seminario di Michele Minunno, che si chiamava Vita da Branco, che mi ha prospettato, a me e a tutti i presenti, una visione diversa del randagismo, non più come una piaga, un problema sociale, ma come un fenomeno, quindi da osservare da tante prospettive. Qualcosa che per me è stato illuminante e che vedevo catturava delle emozioni nelle persone che erano presenti, proprio liberatorie. Ho pensato poco dopo di approfondire la cosa, di andare al sud, di realizzare con Francesca Suppini, sì, che ha fatto molte riprese, era proprio la nostra, diciamo, operatrice cinematografica di campo, in Puglia e in Sicilia in particolare, che abbiamo deciso di provare a ricatturare queste emozioni che avevo provato io, successivamente lei, per appunto esplorare un'idea diversa. Quanto tempo vi ha richiesto questo lavoro? Tanto, perché era anche un primo lavoro, quindi direi che l'idea risale a 2 anni fa, le riprese nel primo anno e il montaggio nel secondo, con delle interviste costruite nel mezzo. Parte il documentario dopo una ripresa di canile con delle immagini che abbiamo realizzato io e Rebecca al Pet Festival, che è una grossissima fiera, ci passano 30.000 persone in pochi giorni, dove sono esposti animali di una moltitudine incontabile di specie, no? Quindi si vedono uccelli, pesci, canarini, non posso dirli tutti, sono veramente tantissimi. Noi eravamo veramente atterriti. Una sofferenza particolare che abbiamo indirizzato sulla reclusione, sulla mercificazione, non tanto sulla violenza che siamo abituati a condannare. In realtà la reclusione, la concentrazione, insomma, il rubare gli animali dal loro habitat naturale, dalle loro vite, dalle loro relazioni, è spesso poco considerato. Tutto ciò si sta realizzando in una maniera particolare, no? In una società capitalista che mercifica tutto. Abbiamo individuato un'ideologia che abbiamo chiamato ideologia del pet, che insomma incanala nelle nostre teste e anche nelle nostre migliori intenzioni, perché il punto è questo. Rappresentiamo molti cuori in questa denuncia come parte di un problema del nostro sguardo indirizzato in una maniera troppo riferita a noi stessi, al bene che noi facciamo più che a quello che a loro serve, e quindi è una critica forte, è un film che vuole provare a parlare al potere contro la proprietà, contro l'idea che gli animali siano i nostri animali. Passiamo invece alle persone intervistate, ci volevi elencare Michele Minunno, che hai già citato. Lui è l'architrave di questo docufilm. Susan McCute, autrice di un libro molto interessante. Normalmente i libri sui cani a me non piacciono proprio. Lei invece ha scritto nel 2006, e l'ho recuperato molto dopo, un libro molto particolare, perché la storia sociale dei cani ripercorre la convivenza problematica che l'uomo attraverso varie culture ha realizzato con i cani, e l'analizza da un punto di vista, insomma, rivelatore di tutta una serie di problemi che poi proviamo a toccare. Fabio dei Troglodita Tribe, che una sera è venuto da noi a Luna Corre, io faccio parte anche di questa casa famiglia con Rebecca, e ha portato la sua esperienza e delle immagini, i suoi racconti del viaggio che ha fatto con Lella, la sua compagna, in Sicilia. Giuseppe Bucalo è un operatore antipsichiatrico che ci ha permesso di realizzare un parallelismo con il discorso di critica alla psichiatria, che vuole incanalare in un comportamento unico, più sicuro, gestito, controllato, i cosiddetti etichettati malati psichiatrici. Ho visitato molti canili e zone, insomma, di randagismo nel sud, e non voglio nascondere le problematiche, non è questa assolutamente l'intenzione, incuria e maltrattamenti sicuramente, però ho visto anche tante altre cose, ho visto spazi di libertà, situazioni di integrazione, qualcosa che normalmente non consideriamo, e quindi il ritorno nelle strutture dove io mi adopero tutti i giorni, quindi nei rifugi, è stato realizzare un cambiamento, vedere delle forme di espressione dei cani, dandogli più valore, cercando di cambiare la direzione del mio stare con loro. Quindi in qualche modo io posso dire che mi ha ricaricato. come sa bene chi ci segue con regolarità, un appuntamento fisso della nostra trasmissione è la ricetta della settimana, a cura del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, cuoco professionista e anche storico attivista, sia animalista sia nel mondo dell'antirazzismo. Sentiamo che cosa ci propone questa settimana. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. La ricetta di oggi è ispirata alle gazze. Ho letto che è uno degli uccelli più intelligenti. Ho sempre pensato che le chiamassero gazze ladre perché sono bianconere. E invece ho scoperto che il nome viene dalla loro attrazione verso gli oggetti che luccicano. Quindi, scusandomi per l'errore, dedico a tutte le gazze del mondo un bel piatto di anelli di cipolle dorati. Gli ingredienti per 4 persone per gli onion rings sono 2 cipolle dolci belle grandi, 100 g di farina di ceci, 50 g di farina di grano tenero tipo 0, 20 g di farina di riso, un pizzico di curcuma in polvere, un pizzico di sale, un cucchiaio di olio extravergine di oliva e dell'olio di semi di girasole per friggere. Sbucciate le cipolle e tagliatele a fette di circa mezzo centimetro di spessore. Quindi separate tutti gli anelli, facendo attenzione a non romperli, e sistemateli in un contenitore immergendoli in acqua fredda per circa un'ora. A parte preparate la pastella, unite le farine e la curcuma e mescolate. Aggiungete dell'acqua a temperatura ambiente, poca alla volta, mescolando con una frusta, fino ad ottenere una pastella liscia e non troppo liquida. Unite un cucchiaio di olio extravergine e aggiustate di sale. Quindi lasciate riposare coprendo con la pellicola fino a quando le cipolle non saranno pronte. Trascorso il tempo necessario, scolate e asciugate le cipolle. Immergete ogni anello nella pastella avendo cura di eliminare quella in eccesso, quindi fate friggere in olio ben caldo. Lasciate cuocere fino a quando non avranno assunto un colore ben dorato, girandoli di tanto in tanto per ottenere una doratura omogenea. Scolate e fate asciugare su carta per frittura. Aggiungete un pizzico di sale in superficie e servite ben caldi. Questa settimana è tutto, a risentirci fra una settimana, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.